10 c'è qualcuno? Attenzione 10. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10. Attenzione 1, 2, 3, prova canale 10. Ora prova canale 10, c'è nessuno? Chi è? Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ascolta, come ti sembra la radio? Ah, c'è da meno un goglio denti. La radio già è buona, 5, c'è anche l'ecco. Ti sento male che c'è un altoparlantino attaccato. Oh, aspetta, se riesco a fare un po' di cassa di risonanza. Caspita, avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po' Fabri. Non so se sono io, ma ti sento saturo. Allora sei tu, perché io non sono stato un tubo. L'unica cosa che ho è la ventola, ma ho abbassato il microfono. No, forse è troppo forte, arrivi un po'. La cosa vuoi ti dica, metti l'antenna all'interno se arrivato troppo forte. C'è una casa in vendita vicino a te, mi è proprio nel tuo palazzo, gira, me la piglio, cazzo, così ti crepo, cazzo. Sì, ma sul tetto non puoi salire che è mio, di mia proprietà. L'ho vista ieri su Tecnocasa, l'ho vista. Prendi ese appartamento, io tu un palazzo di Fabrizio, adesso glielo ricordo, lo sento. Così mi piazzo l'antenna lì, non c'ho bisogno neanche di piazzare il palo. Lo stesso taliccio lo piazzo. Ascolta, dove c'erano delle modifiche su questo apparecchio? La radio com'è? Forte? Ancora non c'è doppio modulatore, però com'è la radio? Forte? Guarda Fabrizio, hai calato da 9 più 20 a Santiago 8, Buonasera a tutti. La radio già è forte, io ti sento bene. Non ti sei accorto del segnale, che ha calato il segnale, non te ne sei accorto? Rica no. Bisogna stare attenti a segnare proprio, ma può fare danno dando i controlli, Da 9 più 20 col Galaxy io sono, si è sceso a Santiago 8. Infatti non sta più erogando watt. Infatti non stai erogando watt, Mantonello guarda solo la radio invece guarda lo smitter. Cos'è scoppiato qualcosa? No, 20-98. Aspetta. Controlla Fabi, perché c'è un problema di potenza. Forse avevo girato l'interruttore. 20 a Santiago 8. Ciao Antonio, direi che sto ascoltando la partita, se avete bisogno chiamatemi. No, avevo solamente il, come cavolo si chiama, il selettore spostato da. Adesso sei tu, 9 più 20 abbondanti. Bianco per me, ci sentiamo tra un attimo, riprendi Antonio, ciao Fabi. Ciao Claudio, ma com'è questa radio che ci sto iniziando a lavorare? Bella Fabri, bella, forte, fortissima, va bene. Siamo solo con la scheda, ecco, voglio vedere col doppio modulatore cosa succede. Vai con liscio, che ce n'è. Dai, riprendi con Antonello che io torno subito. Tanto io sono la sera, poi bisogna che stacchi un attimino. Antonello, guarda qua, ma come ti sembra l'eco? È regolato bene, devo aumentare le ripetizioni, io non so nemmeno come deve suonare. Lascialo così l'eco, è meglio. Già si può fare più lento, già lo sai, nel Saturn, ecco, basta cambiare il potenziometro, metterci quello da 220 e ti fa l'eco più lento, però lo sai che ti fa il fischietto fine, poi devi regolare con l'altro trimmer, e quindi lascialo così a fottettini, l'eco va bene. No, ci sono parecchie regolazioni, ho regolato così, non so nemmeno se va bene. Poi dal potenziometro della radio posso aumentare le ripetizioni. Ecco. Che ripetizione, effetto piccato, veloce ripetizione. Avanti. Mi sta prendendo Alzheimer, qui ci vuole in casa, Roberto Quadrato. Sentire Roberto, perché a te ti sento, io sono un altro parlantino piccolino buttato sul tavolo per la raga aperta, no? L'ho saldato così velocemente, però a te ti sento malissimo e non so se è un problema mio di quest'altro parlantino, però io lo sento tutto bene, ma vediamo Roberto che è vicino. No, ecco va bene, lascialo così, non toccarlo per niente. Carlo deve fare quella modifica lì, rimane lento, rimane. È bellino di fare due ripetizioni, però devi stare regolando, ci sono due trim, uno e l'altro. In pratica quello dell'eco è quello che ha due pilini, quell'altro è dall'altra parte. Riecomi. Sto come l'ando Fabri. Ho modificato un apparecchio, però siete tutti quattro qua pronto scala e io vabbè c'ho un altoparlantino normale. Adesso provo a attaccare la cassa esterna per vedere se per caso è lui che vi sento tutti male, e quelli vicino là. Sono strano questo ecco Fabri, c'è la voce in prima persona, è abbastanza chiara, poi si sente come un eco sopra, cioè non è la voce tua con l'eco, cioè è come che ci siano due modulazioni sovrapposte, c'è qualcosa che non quadra a dire. Allora, ma l'eco tu lo senti in questa, posso anche aumentare un pochettino o diminuire, non lo so. È molto confuso Fabri, non è il classico eco, la cosa è un eco esterno, che cos'è, sul microfono? No, no, allora c'è la relazione di delay, di velocità, di coso, perché si sente la tua voce e poi un'altra voce che sta ripetendo, non è una cosa naturale, cioè una cosa strana, non è chiara diciamo la modulazione. E allora diminuisco, allora adesso l'ho chiuso completamente, 1, 2, 3 prove, adesso l'ho aperto poco. Aprilo un po' di più adesso. Adesso l'ho aperto un po' di più, col potenziometro della radio stesso lo posso regolare. Forse è troppo la velocità, c'ha questo ecco, la ripetizione è troppo rapida, il delay è troppo veloce. Aspetta, prova a diminuirla, dovrebbe essere questa la ripetizione, aspetta. Guarda se così è diminuita la ripetizione. No, ripetizione non ne hai, c'è poca ripetizione però c'è molta velocità. Guarda, adesso ho aumentato un po' la ripetizione. Sì, però te l'hai corto, ha migliorato però è corta la ripetizione. Adesso, allora io la sto regolando, adesso secondo te come ripetizione va bene? Fai un passaggio lungo, prova. Guarda, 1, 2, 3, prova, questa è una ripetizione, vediamo un attimino se va bene o va male. Adesso se devo aumentarlo o diminuirla, lasciala fare un po'. Lo sai cos'è Fabri? È la velocità il problema di questa delay, cioè la velocità è troppo alta, per cui il tempo di coso, cioè tipo un effetto che c'è in una grotta, una caverna, una cattedrale, molto un riverbero, cioè più che altro, non è neanche, perché è troppo veloce. Adesso diminuito, guardo un attimino, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso la voce è chiara, però dovresti allungare l'intensità dell'eco perché è troppo breve. Non può farlo, è usato un eco, capito? C'è l'eco così, non puoi, non è un eco di quelli professionali, capito? Adesso guardo un attimino, ho aumentato un pochettino le ripetizioni e il tempo di durata, ma quindi questo non puoi fare niente, è soltanto standard come cosa, come posizione. Esatto, sì. L'unica cosa che può fare è staccare il potenziometro, quello fatto a trimmer, che ha due piedini, metterci un potenziometro da 3 da 220 ohm e sistemarlo dietro e fare la ripetizione lenta, capito? Tutto lì, o meglio detto io, è stato un eco così, io ne ho fatto due di Saturn Echo, se è Saturn Echo, poi non lo so se sia ancora qualche altro apparecchio, c'era una volta il Maio che usciva veramente, diciamo un bel eco quel periodo, più che ecco era un reverbero, ma era bello. Aspetta, riprendo io. No, non è niente di tutto ciò, è una scheda ecco che sto installando. Ascolta, Robè, dimmi più o meno come adesso le ripetizioni. È breve, il tempo è breve, la durata dell'eco è breve e la velocità è abbastanza alta, diciamo, ti sfocca un po' la modulazione. Quindi devo diminuirla. Ti sei abbassato anche di segnale, Fabri. Sì, quindi devo diminuirla. Che cosa devi diminuire? La velocità, riprova a parlare un attimo. Allora, devo capire se io devo diminuire le ripetizioni o la velocità. Allora, devi aumentare le ripetizioni, perché te lo ripete solo due volte quello che stai dicendo e si interrompe bruscamente, non c'ha quell'allungo di eco classico come ce l'hanno. fanno tutti, mentre la velocità della ripetizione è troppo breve, è troppo veloce. Non so se mi sono spiegato bene, cioè ti fa due ripetizioni però in tempi troppo brevi. Comunque va bene, cioè lei come ripete due volte va bene, si capisce benissimo. Il problema è che quando c'è un eco devi in pratica modulare lento, perché se parli veloce si accavallano le cose, capito? Sì, però l'eco quando è discreto ti ripete la voce, fa 1-1-1-1-1-1-1, poi piano piano decade, invece qua fa 1-1 e bu, e si ferma di colpo. Ok, già ho capito. Io ho il coso, DMM è fatto così, ho dovuto mettere la ripetizione a 2 per forza. È troppo lungo, mi sto spostando, dai, no. A un sacco di gente non mi piace, capito? E quindi l'ho messa a 2. Allora, è troppo lungo con poco, non so dove mettere le mani, e mi servono solamente a capire un attimino come sta uscendo, anche se ho il parlascolta, però come tu, cosa devo, come piace agli altri, ecco cosa mi serve. Allora Roberto, guarda un attimino, adesso io non so perché è collegata al potenziometro esterno, allora, così l'ho chiuso completamente. Cosa succede chiudendolo completamente il potenziometro? Ma tu vuoi parlare di qualità di modulazione, rimane un pochettino nasina come cosa, chiara però è nasina. Di solo una parola per dire fai uno e vediamo, anziché fare un discorso, fai uno e voglio vedere poi con l'eco come la distorsione. Allora, della modulazione non mi interessa, guarda l'eco adesso. Adesso io, per esempio, aumentando in questa maniera, senza toccare la scheda, cosa sta succedendo? Sta ripetendo, però è breve. Nel senso, la durata dell'eco, la ripetizione ti fa solo due ripetizioni, non te ne fa 10-15 come normalmente è un effetto eco, ed è molto veloce quello che sai, quando dici una parola te la ripete velocemente, forse è troppo veloce. Sì, allora adesso secondo te le ripetizioni sono aumentate? No, beh, stai attento però che quando tocca quel potenziometro cala di segnale. Perché sto giocando con col coso qua, col col selettore dell'antenna, perché sennò mi arrivano i segnali troppo forti e mi tira problemi di saturazione. Ascolta, come ripetizioni come sono? Devo regolarlo questa scheda, non so nemmeno come deve suonare. Ripetizione ne hai due, Fabri, non è un eco lungo, è quello lì, e tra l'altro non è neanche molto chiaro, sembra un accavallamento di voce una sopra l'altra, come quando metti due segnali uguali e mixati uno sopra l'altro. Sì, vabbè, me lo devo regolare, io quello che voglio sapere, adesso, guarda, uno, cioè due ripetizioni, dici uno e fa uno uno, così. Aspetta un attimino. Adesso è un'altra musica, adesso sta iniziando a essere un eco, prima era una specie di riverbero, prova adesso. Aumento, Uno. No, questo è l'effetto elicottero, non ti ripete la modulazione, fa quell'effetto strano elicottero, poi l'hai messo troppo alto e hai peggiorato tantissimo. Quindi questo lo deve abbassare, questo effetto qua. Sì, questo abbassa, lo so, ti sto con la modulazione, sembra che sta passando un caccia sopra. Ecco, adesso questo l'ho abbassato, come ti sembra? Uno. C'ho il trimmer tutto chiuso, uno. Adesso c'ho il trimmer tutto aperto, uno. Allora questo regola il delay, questo che stai regolando tu, perché ti aumenta la velocità della parola, non della durata del tempo di coso, della parola. E come va bene, guarda, passaggio 1, chiuso a 0, passaggio 2, passaggio 3, passaggio 4. Prova il 4 un attimino di nuovo. Passaggio 1, passaggio 2, 2, passaggio 3, 3, passaggio 4, 4, passaggio 5, 5. Allora, tieni presente, più sali, dici, l'ideale è il numero 2, anche se è breve come durata, l'ecco, più stai salendo più ti sporchi, la modulazione è tutto sporco, come non si capisce quasi quello che dici. Boh, aspetta, a Claudio lo conosce meglio, però deve essere, non è che sarebbe, deve essere il classico da camionaro. Com'è Claudio? L'unico problema è la durata, Fabri, se riesci a allungare la durata va bene, è il classico cosa da camionisti, come dici tu. Allora, uno... Così ti copre questo effetto elicottero, ti copre la voce. Diciamo, questi utilizzi per trovare il sistema di aumentare la ripetizione, per il resto già va bene, diciamo va bene relativamente al discorso dell'eco. Allora, in questa posizione, a parte le ripetizioni, va bene così, poi le ripetizioni forse le aumenta col potenziometro. Sì, sì, sì, sì, adesso è chiara, se riesci a aumentare la durata va benissimo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, adesso è meglio. Ecco, questo no, perché qui c'è il potenziometro che ho messo esterno al corpo dello strumento, non mi ricordo di corso. Quindi così ho aumentato dal corpo. Sì, però parlando, quando parli con questo effetto qua devi parlare più lentamente, se no si sovrappongono le parole e non si capisce, cioè devi avere un linguaggio più lento, se no è troppo veloce la ripetizione. Allora, adesso ho l'eco in maniera aperta al 70%, adesso sto aumentando il mic gain, l'ho portato al 100%. Sì, diciamo se parli lento è comprensibile, perché se parli normalmente come sto parlando io si sovrappongono le voci, la modulazione e non si capisce niente. Quindi diciamo che con l'effetto più o meno va bene, poi posso anche regolarlo con calma, è giusto per dare la prima impronta. Sì, diciamo è discreto, dai. Non è eccellente ma sufficientemente chiaro, dai. Non è eccellente, ti ripeto, non è forse un eco di qualità, probabilmente un eco un pochettino scarsino come qualità, però diciamo è comprensibile. Sì, credo che sia il classico eco che montano dentro questa radio, l'ho preso per questa radio, non lo so, adesso ho fatto un paio di controlli, poi devo collegare l'eco, non l'eco, Roger B. I canali li ho messi, la doppia illuminazione, i frontalini è tutta stata messa, il trasporto è stato messo, il doppio, e devo montare tutto il modulatore e montare la potenza. E se parli così, normale, veloce, non riesci a comprendere, perché se ripeto, è troppo veloce la ripetizione, e fa tutto, uno, due, tre, sembra che stai parlando uno sopra l'altro, due persone sfasate, nel senso, come controfase uno dell'altro. Però se uno magari lo vuole usare, si mette a parlare lentamente, riesce a comprenderlo. No, vabbè, c'è il potenziometro esterno che regola sia il mic gain, credo che queste sono le ripetizioni, e quindi adesso le ho diminuite, ma le diminuisci direttamente una volta chiusa la radio dal potenziometro. Così qua, se rimane così va abbastanza bene. Vabbè, così può rimanere, poi posso aumentare le ripetizioni, posso diminuire col potenziometro, posso chiudere completamente, ma questo lo faccerò, lo fa lui dall'esterno col potenziometro. Sì, sì, sì, se c'è la possibilità lascialo stare. Guardate, c'è qualcuno che sento chiamare sotto, avanti che vuole entrare, che avanti, vabbè, riprendi tu Antonè. Io non sentivo voi, sono chiamato a letta, ho fatto questo buco, sta... già va bene. Vabbè, dai, io mi sposto, sono tutta la sera qua, vedo un attimino di controllare altre due cose e poi stacco tutto. Grazie a tutti dei controllini, magari ci sentiamo dopo. Va bene Fabri, tanto ancora un pochettino rimango, poi sto aspettando, mi chiamano, devo uscire. Vai a passeggio, vai. Vediamo se entra qualcuno sul 10 nel frattempo, attenzione canale 10 che vuole entrare, che è avanti, segnali anche abbastanza forti, avanti se vuoi entrare o c'hai problemi di radio. Stasera c'era il Kentucky, c'era, alle 5 di sera. Addirittura. Via. Il Kentucky c'era, dico bene quando scendete un capo in officina, intanto la propagazione comincia dalle 2:30 in poi, a parte la propagazione russa che sentivo, Ucraina, quello che c'era gli americani sul canale 6, ma il Kentucky segnale 9:20. No, no, senti, l'ho acceso stamattina che c'era Gianfranco, Carlo e poi chi è entrato, boh, non mi ricordo, ah, Natalino c'era. Anni fa mi è capitato di sentirli negli Stati Uniti, ma sono da tanto che non li sento, mentre Russia, quelli già è capitato, Russia, Romania, Polonia, quelli già capitano spesso, Stati Uniti è molto più raro. Cioè, vediamo di nuovo se quell'amico vuole entrare, avanti su 10. E tu cosa gli hai detto, Antonè? A voce a galla io. Vai, vai, cuoco, mane, cuoco, mane. Ciao Luca, ciao Natali. No, non ho detto niente, stiamo solo ascoltando, su 6. Poi su 10 o sul altro canale c'è la propagazione russa, ucraina, quello che era. Ma lo voglio sentire su 6, 9:20. Poi vabbè, poi ieri notte mi sono divertito perché verso le 9:30, 10, e su 9 di solito parlano gli spagnoli o cosa diavolo sono, ma arrivavano fortimi. Natali, guarda, io l'appennino l'ho provata prima di data e partiva alla grande. Cioè, non ho toccato, ho fatto solo il coppia nella mia. Ma facendo il coppia non funziona. E infatti me la sono fatto io dal sito. Ho scaricato quello che dovevo scaricare, l'ho messo all'appennino, adesso la mia è avviabile. La tua volta sarà avviabile, capito? Strano, ma vero. Eppure non avviava. Me l'ho dovuta rifare, l'ho formattata e l'ho rifatta nuova. Non lo so, vabbè, dai, riprendete, io sto uscendo, ciao. Ciao Luca, forse avevamo parlato in due, ho detto ciao Luca. Ciao a tutti, ciao Roberto, Fabrizio, Natalino, Pompone, non so che ci sia altro, dai, sto uscendo, ciao. Ciao Luca, ciao. Dai, avanti, chi tocca, Natali. Dai, io sto facendomi l'insulina, dai, vi ascolto. No, vabbè, tanto. Sto guardando la partita in diretta col telefonino, 2-0 la Juve. Adesso chi è che stanno sostituendo? Buh, non la metto in mano. Ok, di nuovo a te la torna. Via Gappa. Va bene, cioè, va bene. Aspetta, guarda sul telefonino. Ah, è vero, su TV non te la fanno vedere. Quello è il problema, è un casino adesso. Come non te la fanno vedere? Chi l'ha detto? Pensavo che magari non te la facessero vedere, cosa ne so? Se la guardi sul telefonino, infatti ma mettete il televisore lì? No, sono in radio, me l'ho messa qua, tanto devo uscire tra poco per non stare accesa. Ma io me le guardo anche su satellite, sono sintonizzato su dei canali stranieri e le danno le partite. Ah, meglio così. Sono contento, sono contento. Dai, vediamo un pochettino ancora un'altra chiamata su 10, c'era quel segnale 9:10 qua, non capisco chi è, avanti se vuoi entrare, però non capisco la gente che manda portante, li chiami, ogni 30 secondi mandano un segnale per far vedere che ci sono, o parli o non mandare portante, ancora di nuovo, non la senti Antonetto? No. Arriva 9:10 da me. No, allora vicino a te. Deve essere qualche portante di quelli che vendono. Perché qui non arriva nulla proprio, nessun segnale. Avanti l'amico che vuole entrare qua sul canale 10, senza paura già non facciamo male a nessuno. Vabbè, riprenditi la tua Tone. A meno che non c'hai quei portanti su Luigi Alfa una volta che vendevano alla Standard. Andava a cercarlo, di solito il canale era 11 Alfa e 14, non c'era nessun'altra cosa, Natale te lo dovevi aspettare, invece adesso a Natale si comprano i TMR, quelli blondi, cosa del genere, senti padre e madre che parlano del figlio, vai piacere figlio mio, vai piacere, così mi chiami. Ho comprato dai cinesi una tastierina piccolina per il computer, l'ho aperta e una copertina era nera, la mia pizza è bianca, ma è roba di ospedale, che brutta. No, io ce ne sono pigliato così, io tutto originale ho preso, adesso bisogna che mi faccio programmare. C'è qualcuno che mi sta traslando in TMR sul canale 7. più qui giù. Ma proprio il PMR, ci sono passato da Portobello, ci sono due di quei PMR piccolini dalla Brondi, mi pare 15 euro tutti e due, nuovi. Mi sono pagati 30 euro due io, della Bonfeng. Ci sono a programma di base, basta avere un computer e programmi, e ti metti 8 canali PMR e 8 in LPD. Anche questi ce l'ho io dalla Bonfeng, me l'aveva presi il padre di Riccardino, due ce n'erano in offerta, ecco, li apro tutto a posto e uno ci manca l'antenino, pezzi di merda, ed ecco l'antenina è piccolina e con l'attacco SMA, quelli piccolini, e non è, manca l'antenina, infatti ha detto vabbè, ormai è preso, ne ha preso due lui e due io, ma non li ho mai provati, li ho solo accesi e buco. Senza neanche programmarli, se vuoi provarlo, uno lo possiamo provare. Intanto io non l'ho toccato, è originale, la frequenza che c'ha su canale 1 è 462-125. Ma sinceramente li ho presi, ma tu me li stiamo ordinando, mi pare, vorrei dire 20 euro tutti i 25, adesso mi ricordo quanto li ho pagati con i caricatori, la batteria di scorta, diciamo sembrava un'offerta, ma li ho presi così, per dire quando vai col camper, siccome io ho quelli della Brondi, ce l'ho da tantissimi anni, ce l'avrò 15 anni, e tu dici che c'erano questi qua, tu vai col camper con degli amici, ma non me ne ha fatto inutile, ce l'ho così, per ascoltare su altre cose, già c'ho altri apparecchi. C'è quello Bonfeng, che è quello 88, originale, l'ho fatto ieri. Allora, sì. Questo è canale 1, certo non scratch, la frequenza è 462-125. Ma c'è qualcuno, ci sta andando qualcuno in PMR? Sì, già c'è gente, intanto schiaccia qualcuno, lo senti. Ma PMR o LPD stai parlando? PMR. E chi c'è? Mangiate quali sassari? Eia. Con l'antenna esterna però. Anche per portate da c'è. Sinceramente, che vantaggio c'è di utilizzare il PMR? No? C'è il CB, non è meglio il CB? No, secondo che punto 6 esci bene con PMR, a voglia. Sì, no, vabbè, a me questi portatilini a tenere le mani così, boh, finché sei fuori, dice ci me ne vado a Usino, dai, provi a fare qualche collegamento, ma tenere lì in casa così, boh. Io con Marco, la verità, da qua arrivo tranquillamente al produttore, alla chiesa. Ho capito, da Marco? A casa, qui con Gommino, direttamente alla chiesa che c'è via Polo Torres, come si chiama, Santa Vittoria, come si chiama, boh, non sta a vedere, vabbè, ci avrei capito, la chiesa che c'è via Polo Torres, dove fanno i festeggiamenti d'estate. Arrivo tranquillo da qua, con Gommino, mi va l'antenna in gomma, e lui sta intanto facendo con l'antenna in gomma, cioè con portatino con l'antenna in gomma dalla macchina. Ma con che potenza stai parlando? 5 watt so. Ah, e che cazzo, se fai 5 watt, perché il PMR non puoi superare i 500 milliwatt teoricamente. E vabbè, questi sono 5 watt e vanno bene. Sì, 5 watt ci prende, ma ti ho detto 500 milliwatt, come cazzo ho fatto? E cosa vuoi ti dica io? Dicono bene, non è che sto male. Quindi figurati tu. Io sai quante volte lo usavo io, anzi ho usato anche quei Brondi fatti quelli orologio, ce l'hai presenti. Io ho fatto la prova, mio fratello, durante Razzino, e io sono arrivato sino a Piazza Castello, parlavamo assieme, dopodiché l'ho perso. No, io ce l'ho da tanti anni il Brondi, però non va a fare 500 metri, un chilometro massimo dentro casa, non che non ne fatti l'antenna, c'era la modifica per modificarli, ma sinceramente non me ne ha fatti nulla, cioè per l'uso che ne faccio io, li ho presi così perché all'epoca c'era l'offerta, adesso te li tirano a faccia, ci sono quelli Bofeng, Bimanda pure, che hanno sintonia continua, puoi fare quello che vuoi e costano 50 euro. Ah, beh, io ci ho dato Bofeng, dopo 5 di più plus, e quindi posso programmarmelo come voglio, c'ha le frequenze memorizzate e poi posso passare da memoria in normale, li metto la frequenza che voglio e va. via. Ma mai già ne ho di apparati per provare, ne c'ho altre cose più sofisticate, ma sinceramente non è mai interessato più di tanto. Per dire, se vai tipo a fare escursioni, cose così, ne dai uno a Capobranco e poi tu quello che è l'ultimo, dici guarda che siamo qua, dopo 200 metri gira a sinistra, ma non fai così, già è utile, è comodo. Se lo usava dei monti, se lo usava. Te lo sto dicendo, usava questi portatili qui dei monti per far avere la patente alle ragazze. Il giorno prima li faceva fare il percorso e lo doveva fare con l'esaminatore. Ne ho sentito di tutti i colori, hai visto quella nigeriana che hanno pizzicato, c'aveva la cosa, il microfono e mo'. E il suggeritore gli dava le risposte, l'hanno fatto fare tutto l'esame, alla fine ne ha sbagliato 5 di domande, non li sappiamo più il suggeritore. Telefono, scusate un attimo. Mi stanno chiamando i carabinieri Anna. Ciucchi ciù. Ci è rimasto avanti. Avanti. Che avanti? Non hai sentito questo fischiare, Antonio? Ho sentito. Ma c'ho qualche dubbio che possa essere, non ci credi, però non lo dico. Ah beh, già si fa la vivo, cosa vuoi ti dico io? Quando sei arrivato a te il segnale? Vabbè, col 2009 questo qua, i segnali non è che siano giusti, capito? Con l'altro è una cosa diversa. Tanto ho lasciato Giovanna, c'era lì a casa sua, con lineare. Io sono rimasto con questo qua, FM500S, e poi l'altro, vabbè, l'ho prestato, e anche un PMR l'ho prestato. Se l'hai dato la radio tua a tua sorella? Sì, Giovanna c'ha l'altro, il Connex 4000 c'ha. Non l'ho più sentita da tanto tempo, da questo inverno. Vabbè, non è che sta entrando tanto, sta entrando sotto solo la sera. E intanto entra lei oppure mia nipote, di là, da casa di Giovanna. E c'ha pure il lineare. Allora, gli ho dato io, gli ho dato lo Speedy CTE, gli ho dato, sto usando quello, io ho quello grosso, devo solamente avere la voglia di aprirlo, cambiargli quel finale, piazzarglielo e basta. Sì, però non va l'antenna, non c'ha l'antenna, non è così. C'era l'antenna, c'ha la quella specie di Game Master autocostruita, agganciata alla, come si chiama, al terrazzino. Quindi ti schiaccia pure a te, cacchio, adesso ti supera come c'era. Io comunque ho segnato adesso 1-0, all'86. Sì, no, schiacciato non mi schiaccia. Il casino è che non posso scendere a capo a casa sua per il momento. Via che c'è con metodo per poterlo farglielo scendere, o gli stacco il cavo satellitare e gli metto il 58 fino a casa sua, che l'unica cosa da fare, tanto lei la parabola non la usa, oppure il satellitare glielo lascio che più fine gli trovo il cavo TV, che è quello più grosso, quello modello vecchio, così c'è più spazio. Ma il cavo satellitare è 75 ohm, tu devi mettere 52 ohm. Sì, sto parlando solamente di come diametro, ho capito. Quello satellitare è fine, potrei anche lasciarglielo stare, lo usa per la TV. Invece tolgo quello della TV e ci passo l'LG58, che come diametro è appena più stretto del cavo TV. E scende con una bellezza, capito? Siccome i tubi sono da 15, hai capito? Non ho messo quello da 20, non ho messo quello da 15 quando ho costruito il palazzo qua. Ah, in canale quindi deve entrare, no, pensavo fosse esterno, infatti ha detto, no, come non detto, allora. Aspetta, facciamo un attimo il bianco, ancora qualche minuto che poi vado via, vediamo se vuole entrare qualcuno qua su 10, nulla, non c'è nessuno, riprendi tu Antonio. Devo farlo per forza in canale, in pratica passare dal tetto, entrare dentro al muro con una sondina e farglielo scendere sino a giù dove c'è il partitore della TV. Dopo che c'è il partitore stacco il cavo TV, gli passo l'altro e in pratica il cavo scende direttamente a casa sua e esce in salone, hai capito? Ma di strada deve fare il capo? No, saranno con 30-40 metri, se ne esce nemmeno. Cazzo, 30-40 metri sono tante, non sono poche. Sì, sono tre piani però, cazzo, devi contare anche il tetto, mi. E ma ti attacchi l'antenna io direttamente, li metti un quarto d'ora. Sì, così quando parlo io cazzo fonderi, ma così. No, se li metto, due tasselli, li metto, li faccio fuori, dalla, li metto l'antenna del baracchino, due metri più giù della mia, là, una cosa del genere. C'è la, la canna da pesca, c'è. Faccio altro che metterli quella cosa lì, agganciato la canna da pesca e c'è tranquilla. Non c'è bisogno di nulla, solo c'ho la, lo stile della puma, anche ciò. Li metto radiale, è fatta. Ehi, allora, almeno se fai tutto a regolare non hai problemi, una volta che hai fatto non lo tocchi più. Ok, vediamo di nuovo sul 10 se qualcuno vuole entrare nel frattempo, avanti sul 10, sono segnali lontano, probabilmente propagazione, sento qualcuno sotto, però troppo lontano, di nuovo attento. No, io propagazione non lo sento, vabbè, sono basso qua io. Sembro alto ma sono basso. Il discorso è quello. Ehi, di lì c'è una bella posizione, c'è molto inquinamento elettrico, però se avessi una bella antenna più alta sicuramente facevi danno da un bel. Sì, prendiamo fuoco come Fabrizio, non saranno, vai vai, e c'è, sono in mezzo al triangolo del Bermuda qua io, non sollevo più niente, no, devo stare la, la notte, quando cambierò casa, allora se ne può anche parlare, di mettere un'antenna alta, oppure un tralicetto, quello che è, in modo che mi possa uscire bene, capito? Ma adesso così, come, rimango come sono, ho già l'età che ho, quando arrivi a 70 anni, non sai la gente che sta vendendo i tralicci, perché comincia a avere 75 anni, cosa del genere, dice non ce la faccio più, c'è salire sopra il tralicci, dice a sistemarmi il capo ogni anno. Stanno vendendo tutto su Facebook, tralicci, direttive. Ma tu sei in casa tua o sei in affitto? No, no, sono a casa mia fortunatamente, non sono in affitto. Quindi teoricamente non hai problemi, puoi fare quello che vuoi. Intanto se avresti preferito stare all'ultimo piano, no? Sono all'ultimo piano. Ah, sei all'ultimo piano dove c'è l'antenna tu? Eia. No, sapevo, io pensavo fosse un piano, un paio di piani sotto. Giovanna è lì adesso, prima ero lì dove abitava mamma, adesso c'è Giovanna lì, quello è. Hai capito? Se io una volta passavo i cavi fuori. Facciamo, ho fatto la discesa dei tre capi del G213, vivo da titolo in facciata e me l'ha fatta togliere. Poi me, quando sono da quarta sloccato sono andato via San Donato, ho preso che si mi ha tagliato le gaffe, quell'imbecille. Adesso ho messo un compatto molto picco e non faccio altro che bucare il muro, togliere le gaffe vecchie e ci metto le nuove uguali. Così impara. Ma scusa, ma non c'è un pluviale d'acqua, uno scarico delle acque piovane, glielo butti dentro il cavo? No, non va bene, che io sono la palazzina già le viste che ha gradini qua. Se no lo faccio vicendere a fianco al tubo dell'acqua, non dico dentro, a fianco, fascettato bene, messo dietro, magari di un colore che non dia troppo il lucchio. No, non va bene, no. È un casino, di qua. Ho usato una palazzina indipendente e me ne sarei fregato le balle, capito? Quando faccio come quello che ha speso 20 euro e ne metto 5 milioni, è stato quello che mi piglio una casa indipendente e faccio quello che voglio. E vabbè, adesso devo uscire, dai, ci sentiamo prossimamente, ciao, buon proseguo di serata, e saluto anche gli eventuali ascoltoni su canale 10, ciao ciao, cuore te a parte mia. E ciao, alle prossime, vabbè, ci sentiamo. Ehi, dimmi Gianni. Ehi, Gianni, non so più piatto lento. Avanti, clap. Bellissimo, una bella aria amplificata, perfetta, chiara e limpida. Qui la voglia cresce. Se ci metti un toppare con quel microfono sembra che stia vendendo frutta e verdura nella piazzetta. Sta arrivando benissimo la voglia, ci mancherebbe. radio, la verità, eh. Ti porti a averla, ma non c'è, c'è passione e la usi, io, per carità, avere 56 radio qua, fammi tutto il giro, voglia, raggio già le male piene, capito? Quindi io, me, due apparati li ho fatti, li ho prestati, quindi, in modo da farli girare, se no a farli girare io un casino di qua a casa, no, le palle piene, a stare gira, che ti gira, ma attacchi uno, poi attacchi l'altro, allora ho prestato un amico, e la sta girando lui, li usa lui, quando va a tempio, me lo parla in 27, ed è tranquillo. Se ti regalano radio gratis, cioè è bello, solo che io non sono appassionato di quelle radio, la verità. Io risulto quando mi dicono, Antone, la vuoi? Dico, no, fare una cosa, regala a qualcun altro, no, non mi interessa. Capito? Perché i 23 canali non avrei male piede di vederli. Non sono appassionato di quella roba lì, capito? Ma se non li usi, altro che il museo ti diventa, ovvio. Fa la fine di quelle di cosa, di uno che si era tenuto e tutte le dicevo, vai, venite con tutta quella roba lì, no, cosa non sa con i soldi, la tengo a Santa Maria, la tengo, cazzo, adesso che è morto, mi, il nipote ha pigliato, si è lampato tutto, si è lampato, ma milioni e milioni di roba, mi. Hai capito? Quello che vendeva le, che dava, ti ricordi che vendeva quelle antenne antiche, invece vita vecchia, quello è morto. Quindi adesso si attacca a pupa, si attacca a tenere quella roba lì. Adesso il nipote ha pigliato e ha stampato tutto. Frequenzimetri, trasmettitori FM, trasmettitori TV, antenne trattate in oro, in VHF, tutto ci hanno buttato. Tutto quanto tavoli. E è morto l'anno scorso, per esattezza, da solo. Dopo 3 giorni l'ho trovato tutto messo male, hai capito? È morto dentro casa e quindi ha tutto quanto sotto sequestro la roba. Adesso hanno liberato lui a Santa Maria, ci hanno buttato tutto, ma addirittura c'era una di quelle macchine antiche, figurati tu, a parte la 500, ma c'era un sacco di roba lì, di polino oro, cavi, matasse di cavi di rigido, c'era tutto, ci ha buttato il coso, il cugino, tutto quanto, ha chiamato Pavoni, ha riempito tutto, ci ha lampato tutto. Trasmettitori FM, tutto c'era, baracchini, trasmettitori di quei telefoni sui 450, VHF con la cornetta, di tutto c'era, tutto ci hanno buttato. E lo so, cosa andava a fare il maniaco lì, no, non me ne fregava niente. Quindi no, non mi sono portato niente via, non mi interessava, ho chiesto e mi ha detto ci aveva buttato tutto, e dopo vabbè, meglio così, gli ho buttato tutto e ti ho detto la roba lì in mezzo ai piccioni, avete fatto bene, gli ho detto. Cioè prendi una cosa, magari un apparecchio, sembra che funzioni, dai, magari 15 anni fermo, vai a accenderlo e ti rimangono i condensatori in mano. Siamo anche dei lineari, valvole, tutto si hanno buttato, tutto quanto. I dipoli placati in oro, ma belli, i dipoli per VHF, per radio libera, placati quelli andavano bene per... ti posso dire per VHF, ma stavano taralli, erano placati da mabelli, tutto ci hanno buttato. E vabbè, tu sei appassionato quindi, come tuo padre, e quindi va bene, ma io di quella roba lì non sono appassionato per niente, li ho avute, ma non... cioè riempimi la casa dei baracchini non fa, capito? Sto pensando a altre cose ormai, non è che devo pensare per forza a baracchini, tu sei ormai giovane, non sei sposato, quindi te ne fotti. Quando ti sposerai ti porterai tutta quella roba a casa tua, tua moglie sta tranquillo che ti dice mio, o a me o a loro, e quindi dovrai scegliere, diceva quello. Iuia. Va bene, dai. Ti lascio che vado a cenare. Una decina di minuti, poi già rientro, se sei qua, dai. Ciao Antone, buongiorno. Lo passo? Io, ciao Claudio, ci sentiamo. C'è qualcuno, mi sembra sotto, che voleva entrare, chi è? Antone, io dico, stavo solo per salutare. Ciao anche Claudio, se mi stai ascoltando, buonasera, buon quartiere, sto facendo. E sto per salutarvi, dai. Ok, avanti Antone. Io, ciao Maria, saluto, l'hai ben sentito. Come va, tutto a posto, sì? Tutto bene per un momento, e sta aspettando ancora il mio vicino, si mi dava la scarsa, domani invece non l'ho visto, dovevo stare sul tetto a fare un piccolo lavoretto, peggio per lui, là, ne faccio un altro, devo pensare con la commissione che abbiamo già parlato, va bene, là. Va bene, ci voglio sentire l'amico Claudio, come vai, sei così basso oggi? Mi hanno chiamato e comunque la votazione, la radio è ultima, il segnale leggermente più basso, comunque già arrivi qui ottava Claudio, già arrivi, dai, avanti Antonio. Secondo me dico che fare una cosa, Maria, per non stare sempre con questa scala, direttamente dall'appartamento di su, non puoi fare un obolo per poter uscire, qualcosa del genere. Esci direttamente dall'appartamento, fai prima, e se no ogni volta devi stare anche nella scala, girati le palle, capito? A meno che non ti fai qualcosa di esterno, una, come ti posso dire, di quelle... le scale che si agganciano al muro, fai fuori con i tastelli, piazzi questa roba qui, sali direttamente sopra, hai capito? Ci ho già pensato, Antonio, non voglio bucare, non voglio togliere il coso della veranda, capito? Non voglio fare il buco, diciamo, il coso della veranda. E adesso vediamo, era un casinato, c'era una a Bricco, andava benissimo, e poi fra un lavoro e l'altro me lo fanno scappare, adesso non ce l'ho più. Però la prima occasione che la becco gliela prendo e me la riaprendo. Vado a prendermela, la compro e cinta, capito? Ma se lo dico, non pensare un po', io il ponteggio ce l'ho, capito? Ma è un rompimento di scarpe, che c'è il ponteggio e così via. Con la scala, la pulce e cinta, io due elementi di scale, tipo Enel, tipo Sierra, io ce l'ho, due elementi, ma con quei due elementi io ho paura, capito? E arrivo giusto, arrivo, capito? Non mi fido. Poi leggermente appena più in alto. Bene, avanti Claudio. Cara, ci sentiamo al limite, là. Con quelli tipo un tutto. Va bene Maria, ci sentiamo, se fra una decina di minuti adesso do la cena a Simona, mangio anch'io, se poi entri già sono su 10 all'ascolto, basta chiamarmi, non c'è problema, così passiamo una mezz'oretta. Là. Ok, adesso vediamo, mi ha chiamato prima la mia risposta, bene. Ciao Claudio, ben sentito, saluto in casa, grazie, ricordo. Già stai andando bene qui a ottava. Ok, ciao Antonio, buona carica, saluto la Simona, dai. Già sei in casa, adesso vediamo, in casa, già ti chiamo. Aspetta, c'è stato un importante, forse vuoi entrare, avanti, sono chiuso, è attivo, vuoi entrare, ciao Antonio, sotto tutti gli ascoltori, anche per me è quello che ti dai, ciao. Ciao Maria, a dopo al limite 6, ti dà. Ciao domani.